c'è quello lì che esce così, ce l'ha in gola la tromba, ce l'ha, la trombetta, e purtroppo non ci può fare niente, perché tutte le radio che prende esce sempre in quel modo lì, perché le corde vocali sono quelle. Però se tu non hai le corde vocali per farlo uscire così, è inutile che tu giochi con l'amplificazione. Non va bene. Quella è una cosa logica, guarda. L'unico che usciva forte, guarda, in qualsiasi microfono, li mettevi normale, amplificato, di qualsiasi modello, come ti posso dire, Tokai, Viking, eccetera, eccetera, era buon'anima di Giuseppe Intrepido. Non ce n'è mai stato uno come lui. C'aveva queste corde vocali allucinanti, che era una cosa assurda, ragazzi. Non ve l'ho arrivata. È come sentire, cioè, usciva chiaro, ma veramente sembrava amplificato. Invece l'unica differenza è che K2 quando esce da casa tua c'ha la timbrica alta, sembra che sia che, io non so come fare, ma era male abitare nella palazzina dei fatti su, ma se fosse stato in un condominio minimo avrebbero bussato la porta, perché Gianni c'ha la maglia di gridare quando fa la malattia. Vabbè, uno non c'è bisogno di gridare, perché diciamo, quando siamo un amplificato, se gridi rovini anche la radio, devi parlare regolare, basso basso, devi parlare, come vedi io per dire sto parlando a 40, quasi 50 centimetri dal microfono, sto parlando, e con la voce bassa bassa, perché se spingo, se alzo la voce, allora mi va in distruzione anche, mi va. È inutile aumentare la voce. È la modulazione, è il microfono che te lo deve dare l'amplificazione. Esatto, sì, bravo. Ah, a me un sacco di volte me lo dicono, non ti sento, per dire, quello lì che solleva la voce, è quello che io sto parlando normale. Dice no, solleva la voce, mettiti a gridare, io ho detto, quindi in casa io lo uso con la voce bassa, e se no quest'ora mi avevo già bussato il muro, perché io purtroppo ho l'appartamento che c'è fuori da 6, non da 12 o da 20, hai capito? Se lui sta lontano, mi sente, io sento a lui. Sì, ma non è che devi alzare la voce, al massimo ti avvicini il microfono, alla bocca ti avvicini, ma non è che devi alzare la voce la devi tenere sempre allo stesso modo. Appunto, io faccio sempre così, con la voce mia originale e basta. Poi vabbè, ci sono quelli che, tipo Mario Manse, che quando parlano hanno una voce allucinante, li senti anche nella porta accanto, che parlano, capito? Perché purtroppo a me si sente tutto, quando vedi Mario Manse gli aggiunto, gli abbassa un po' la voce, non sei dietro alla teloce che c'hai pure in cantoni, qua c'è un muro a palazzini, e tutti sento sino all'ascensore. Ah, io purtroppo dice, c'ho la voce così, non ci posso fare niente, mi ha detto. C'ha ragione, se ce l'ha così è così, come tanti altri ce ne sono. C'è la voce così e non la puoi cambiare. Ma perché la mia non la posso cambiare? Io una volta mi sono sentito, più di una volta, mi sono sentito in una registrazione che mi hanno fatto sempre i colleghi CB, e mi sono cascato pure io, non mi dia via. Immaginati, forse lo conoscerai, lo conosci a Pino, quello che in pratica Matti parlò di tanti anni fa, che ancora è vivo grazie a Dio, fa lavora lì in via di Zeddu, fa infissi di ferramenta alluminio, per dire. Quando entrava al bar di Carlo, quando abitavo lì, gatto, sentivi solo a lui. Se tu parlavi con un altro a fianco, non sentivi per niente, perché la voce sua era talmente catturata che era una cosa allucinante. Ma finché la voce sua va bene, Antonio. Ma uno che grida a proposito non va bene. Ah, no, no, è proprio la voce sua, così originale, la sua, cazzo. Era davvero una cosa assurda, la voce sua. Tu, lui entrava al bar e diceva, cosa prendi l'amico? Io di fronte a lui, con l'altra persona a fianco, non lo sentivo per niente, forse vabbè che se lo metto soldo io, ma cazzo. Lui ci passava sopra, come avere cazzo, un pappagallo che ti fischia, capito? Come c'era una volta Alessandro a quella del giorno, che quando parlava a Balacchino lo solo modulava il pappagallo. Vabbè, pappagallo. Quelli fa, se tu non impari a parlare, quelli lì sanno parlare meglio di noi. Ma ti sto dicendo che quando siamo le baracchine in casa, Alessandro, la quella del giorno, era una cosa assurda. Lui entrava, ciao, voi sentite, eccetera, eccetera, poi sentivi dietro, cazzo, il fisco del pappagallo, ma se lo mangiava lui, mi cazzo. E tu, Alessandro, non ti sento, cazzo, c'hai un fischio. E cosa cazzo era? Il fisco del pappagallo. Va bene, cazzo lei. Ma ci sentiamo. Mi stanno chiamando, a tanto male, devo uscire. Ci sentiamo, magari più tardi. D'accordo. Prendi quel Saturneco che hai fatto un affare. Fai la modifica, mettici un bel microfono e vedrai che sono una bajussi. Più che un affare, Antonio, più che un affare. Non mi è costato. Quello è la cosa più. Se non lo prendevo io ce lo buttavo nel cassone e te lo non detto. Ah, no, no, no, hai fatto bene. Se te lo regalo l'ho fatto lo regalare, hai fatto veramente bene. Ci metti un bel microfono, già ne hai i microfoni, un bel salerca, non so, adatta di io, anche le MB più 4 c'è bene. E vedrai, una volta che gli hai fatto quella modifica dell'LC, è vasto come turba. Aspetta Antonetto, ti faccio sentire, l'MV5 è sopra quello, e anche l'MV4. Ok, no, io ho l'MV4 nel 2009. E con il 4B adesso ci ho agganciato l'M95. Aspetta un attimo che ti attacco l'MB più 4 e così vedi la differenza. Aspetta un secondo, ecco, questo è l'MB più 4, com'è? 1, 2, 3, 4, 5, 6. È buono. Questo è l'MB più 4 sempre con Connex 4000, capito? C'è anche l'eco, aspetta, stacco l'eco, 1, 2, 3, guarda un po' com'è la differenza. Guarda Antonetto, la sento poco, perché il motivo è il QRM, c'hai niente da attaccare. Vabbè, se attacco lineare, cioè, con la canna da pesca non mi fido a usare lineare, capito? Non so che prenda fuoco l'apparecchio. Però stasera te lo provo con l'altra antenna, vabbè, con la Mantova, così vi dà la differenza. Intanto io cambio un radio. Vabbè, quando vieni stasera che ci stiamo al baracchino, ti faccio sentire la differenza da tutti e due gli apparecchi, li metto uno sopra l'altro, dal 2009 con il 4000, e senti la differenza che c'è. Sempre con lo stesso, con le BB più 4. No, aspetta un minuto, che te lo faccio sentire adesso, un attimino. Va bene. Ora, Antonello? Adesso sono col coso. Aspetta, spengo il barattino c'è a fianco. Adesso sono con la Mantova, con il 4000 Mantova e MB più 4. Ti ascolto molto meglio, ti ascolto 4... quasi 4 e mezzo, quasi 5 ti ascolto di segnale, radio 5 adesso ti ascolto. Questo è il Galaxy Saturn Echo con la MP5. Cazzo, va bene, va veramente bene, c'è una bella radio. E scappa. Poi io ho abbinato anche questo qua, siccome ne ho due di ZG. E l'MV4, io ho abbinato anche quello, e te lo faccio sentire. E Maria. Ok, questo è l'MVP4, vedi a vedere com'è, se cambia la modulazione. Io penso di no. È uguale, cambia solamente la timbrica, che è leggermente più bassa, tutto lì. Però va bene, poco fa c'avevi i toni alti, adesso c'hai i toni un pochino più bassi. Sì, perché allora, l'MVP5 ce l'ho i toni a 0 e l'amplificazione a 10, mentre in questo sto modulando adesso, nell'MVP4 c'ho l'amplificazione a 10 e anche alla radio però, e basta, perché toni questo non è. Infatti il problema non è a questo, ce l'ho anch'io. Questo è l'MVP4. Va bene, va veramente bene. Va. È un bello apparecchio, ce l'ho anch'io, lo sai, sotto me. Rende un bel. Sono magari barozzoni, quello che vuoi, però vanno bene. Capo. Quindi ho aumentato sia la radio e la modulazione. È giusto che sia così. Una volta che aumenti la LC, MC, boh, sei tranquillo, è la potenza. La potenza poi, vabbè, te la puoi regolare nel caso a tasti lineare, diminuisci i passi da 12, dovresti scendere, mi sembra, a 4, se non mi ricordo male. Piloti con 4 e lì esce veramente bene. Guarda, adesso ho abbassato tutta la potenza della radio, ho abbassato, guarda, ok, adesso gli ho attaccato il 747, vieni a vedere com'è. Segnale 9, radio 5 a bomba, non satura nulla, anzi amplifica addirittura. Vedi a vedere, adesso gli aumento tutta la potenza perché sono solo 8 watt solo della radio, vedi a vedere adesso com'è. Va bene lo stesso, va veramente bene, è perfetta. Capo, vedi, e non satura niente. Siccome la radio è vergine, questa qua non è stata mai toccata, e probabilmente anche per quello. Va bene, se vi ho fatto con la modifica che ho detto io, ha voglia che ce n'è anche per i porci. Anche io faccio in pratica la stessa identica cosa, hai visto cosa tornecco? Quando metto a pompare con lo speed CTE, se metto a 12 watt, c'è saturo. Allora devo diminuire a 4. Una volta che scendo a 4 c'è una radio allucinante con lo speed della CTE. È un lineare modello 6, modello vecchio, che monta una valvola sola. Capo, sì. Anche io ne ho. C'ho la BV131, ho una valvola. Ne ho due adesso, perché uno me l'aveva dato insieme a questa radio, mi aveva dato la radio, lo Shure e come si chiama? Un BV131, nuovo. Mai usato quello. Quello te lo puoi tanto abbinare a 131, lo agganci il Saturnecco, che così ci allinea la valvola, e poi il 747 lo usi per gli altri apparati, se ne hai altri, così sì, ti fai le stazioni complete, hai capito? Capo, sì, va bene, di quelli nel 131 ne ho due, uno ce l'avevo già io e poi me ne è arrivato un altro, anche se il modello è un pochettino più avanzato, è più nuovo del mio. Il 747, quello è micidiale perché lo agganci dove vuoi, è transistorizzato e va veloce. E quella MOSFET, c'ha i 477 se non mi ricordo, come i finali, che poi li puoi attaccare anche al posto del 1969 mi. Nel Galaxy basta invertire i piedini e diventano 35 watt, una cosa del genere, da parecchio. Capo, è per quello che io non voglio toccare la potenza del Galaxy, perché gli metti quello ed è una bomba. Lo so che pompa, non glielo a me. Va bene, dai, ci sentiamo Antonio, magari ci sei più tardi. D'accordo, ok. Ciao Fra, ci sentiamo. Prova a cambiare la capsula come ti ho detto io. Anzi, te le metto due da parte, quando c'è voglia di salire a sassare 5 minuti, sai che le prendi. E gliele provi. Guarda, quando salgo te le lascio e vedi cosa gli puoi fare. Va bene, come vuoi tu, non c'è problema. Già sopra i nocchi. Ehi, va bene, dai. Così controlli sia l'usciule e l'altro ti lascio il Cia Delta. D'accordo, già sono qua. Quando vuoi salire mi avvisi e non c'è problema. Tanto già sono a casa, non è che esco tutti i giorni, capito? Anche perché Simona non sta molto bene, quindi devo ogni tanto accompagnarla, eccetera, eccetera. Va bene, quando vuoi, già sono ginocchi, già ne ho pezzi. C'ho anche le capsule, quindi, a voglia. Mi ho dato poco di quelle capsule di videocitofono, quelle verdi, mi già pompavano poco. Poi vediamo, vai, cosa fa. Sì, sicuramente ti chiamo prima di venire. Ci sentiamo, dai, che se no si incazza nelle luci. Ciao. Ciao, le prossime. Chi è? Se c'è da male. Sono qua, sono qua, sono qua, sono qua, sono qua, sono qua, sono qua, sono qua, sono qua, sono qua, sono qua, sono qua, sono qua, sono qua, sono qua, sono qua, sono qua, sono qua, sono qua, sono qua, sono qua, sono qua, sono qua, sono qua, sono qua, sono qua, sono qua, sono qua, sono qua, sono qua, sono qua, sono qua, sono qua, sono qua, sono qua, sono qua, sono qua, sono qua, sono qua, sono qua, sono qua, sono qua, sono qua, sono qua, sono qua, sono qua, sono qua, sono qua, sono qua, sono qua, sono qua, sono qua, sono qua, sono qua, sono qua, sono qua, sono qua, sono qua, sono qua, sono qua, sono qua, sono qua, sono qua, sono qua, sono qua, sono qua, sono qua, sono qua, sono qua, sono qua, sono qua, sono qua, sono qua, sono qua, sono qua, sono quel rumore, niente? No, per il momento no, Claudio, adesso non ce l'ho. Ieri sera, dopo che me ne sono andato dalla radio, sono sceso giù, risalito e c'era di nuovo. Quindi qualcosa che accendono, Massimiliano, soprattutto quando c'è la temperatura fredda. Che cosa che si fa? Che si fa? Nulla. Adesso vediamo un po' d'estate come funziona, e se no d'inverno chiamerò verso il radio, vediamo un po' cosa ne toglie fuori. Certo che sì, bisogna togliere nei piedi, se no d'inverno non puoi trasmettere. Cazzo brioche, proprio così. Ascolta, la c'ho alternata sotto, qua. Prova. No, no, assolutamente. Ah, ok, dai, va bene, va bene. Io non sento niente. Ma si sta là provolata, chissà quello di polo, vedi? Prova. Ora, ora, questo è di polo. Otto arrivi, con picchi a 9. Non è male neanche questo allora, No, no, va benissimo. Tu, aspetta, passo per l'ascolta. Ecco, non ce n'è. Tu arrivi, prova. Vado a vedere, 10, 20, 30. Vedi, Santiago 9 arrivi col polo. Vedi, vuol dire posizionato bene, funziona bene. Allora, c'ho la coda, una va verso, diciamo, zona di Plata Mona, Porto Torres, e l'altra punta ce l'ho direzionata verso Monte Oro, capito? Perché l'ho legato, claro, ai tiranti della lato qua. Gli ho messo una rete, gli ho messo delle fascette, capito? Non è tutta direzione Sassari, però dai, va bene. Vabbè, io sono in mezzo tra Monte Oro e Sassari, non è che sono diretto verso Sassari, sono spostato, già lo sai. Vabbè, infatti già lo so, comunque, va bene, dai. Va bene, sì, ottimo per la truppa. Tutto brioche, però questo microfono è male, comunque, questa va bene, spegniamo. Andiamo con questa e così non ci abbiamo niente in mano. Questa è una canonata. Galaxy con il Turner. Va bene, 9-10 Radio 5. Cava cava, e tu cosa commenti? Guarda, niente, oggi proprio mi sono tagliato l'ingresso del cancello, proprio una pulitina così perché stavo già salendo l'erba oltre il guardarei, se no non si vede uscire, e buh, non ho fatto altro. A riposo, al sole, come le dirighette. Oggi stava bene, oggi ha fatto una bella giornata, dalle 9 con l'aria condizionata accesa fino a stasera, Guatemala, stasera dopo pranzo, che è un caso allucinante. E che vanno da oggi, anche qua c'è caldo adesso, lo fui. Maglietta, figurati, ce l'ha fatto la berrettina con l'aria e buh, adesso sono già le 7:10, quindi la serata è finita. Buonasera. Ehi, no, io stavo, ero al telefono con quello che ho dato il rosmetto, che così, e che non riuscivo a usarlo, capito, però è pieno di stazionaria, e niente, tu pensa che c'ha il mio primo 48 che avevo modificato, l'avevo venduto a lui, il primo. Matteo Gondo, così semplice quel rosmetto. Ciao Gianni, avanti. Buonasera a tutti, no, pensavo non mi avevate ascoltato. Buonasera, ciao Massimiliano, ciao Claudio, non so se ci sia altra gente, comunque saluto tutti cordialmente, dai, è appena acceso. No, non siamo solo io, Massimiliano. Ciao, già, sì, già ti avevo sentito, stavo finendo il discorso, e anche io ho acceso da pochissimo, ho fatto un paio di schiacciate, mi ha risposto Claudio. Va bene, capito Claudio, è il primo, proprio primo 48. A Marco, gli algo no, ci cate da variava con coso, da Vartis, Marco Cicco. Sì, già l'ho conosciuto, già non ricordo quella radio. Non sono radio che vanno bene, io ero là, la mamma è Giampaolo e la mia sta sempre funzionando, ce l'ha già nel dischetto, nel camion. Lo so, lui c'ha la tua radio, è il mio 750, lineare. Vai già. Vabbè. E le cose girano, mi sempre qua rimangono e girano tutte, e va la chilo di uno va all'altro, poi va l'altro ancora, insomma rimangono sempre in zona almeno. E vabbè, fatti il conto già che sono passati forse più di 10 anni, quella radio c'ha più di 10 anni, però gira sempre bene. E dove l'avevi fatta la prima radio? Cosa me l'aveva fatta? Roberto Rapido. Ah sì sì, ma anche la mia una l'aveva fatta lui. Una Lumacone, una Roberto. Poi ho avuto due o tre, una l'avevo comprata a Claudio e non so chi l'avesse fatta, quella che aveva venduto Claudio. Quella che ho venduto a te l'aveva fatta la stessa Roberto Rapido. E l'altra che invece c'è già nel dischetto l'aveva fatta più Lumacone. Insomma, ma adesso non si usano più quelle radio, prima andavano più di moda, no? Avere le radio così, ma adesso no, perché i camionisti stanno usando il telefono adesso. Ma la si risente già. Ce n'è lui. No, io ne ho una fatta dal Pilatta, da Nicola Pilatta. Una ce l'ho fatta a Napoli, una ce l'ho da Leo Barone Rosso in Puglia, e una bella segretaria fatta in Sicilia, e l'altro che forse se ne deve andare a Corso. Da Napoli, non mi ricordo l'altra dove, il paese. Ma le 9, quello che hai dato a me, chi l'ha fatto quello? Quale, Cla? 2009. Il 2009, quello da te l'ha fatto Ciccio Copra. Un bacio alla radio, ma bella quanto è bella, ma ha fatto avere la radio, cazzo, nuova, sempre ben custodita, cazzo, tiene le radio, questo cristiano tutte coperte, cazzo, coperte. Era il 2009, bello, è proprio, è uscita una bomba, pare spararlo per i 30-40 watt, ma poi è nuova, tutto, oh già, mi sembra che ha i coperchi neri e il frontale tutto cromato col display blu e il commutatore dei canali blu, mi pare. Sembra che qualcuno ti abbia parlato sopra, non lo so se è splatter o che cosa. Propagazione, anche qua, ma giù mai di bassa. Certo. Vabbè, comunque, già è passato Massimiliano, però l'ho disturbato. Poco fa stavo facendo qualche passaggio lì a 45 con Ciccio Bello, quello del Belgio. Ancora si trovano qui il canale 45. Aspetta, avete parlato in due, cos'è? Ho detto ci sono ancora quelli del canale 45. Certo che ci sono ancora già. Vabbè, io sono andato fuori perché l'ho venduto da parecchio, quindi non ce l'ho più e non ci vado più su 45, è difficile dai che ci vada, ci posso passare ma non ho più apparecchi per andare su quel canale lì. Già, non ho più apparecchi per andare, già entra, se non è che si va lì solo, uno può anche fare ascolto lì, a girare, a controllare se c'è gente si può andare, non è che devi avere per forza la radio. Massimiliano, lo sai che lì passa il più forte, ti ascoltano solo se sei con l'eco, eccetera, eccetera, non ti fa entrare, senti con un apparecchio normale non sei. Io ho detto un giorno, stavo facendo così un paio di persone, ero ancora calmati, e ci avevo a lineare l'807, ha già ganciato, oi. Ma devi avere potenza, capito? È il più forte, che più forte passa tutti. Non casino. La maggior parte, il 90%, usano tutti queste radio così modificate, la verità. Diciamo che è un canale fatto per far casino, là. No, io l'avevo modificato, io avevo il Cobra tuo, quello che c'è già Gianni, e l'807. Ho attaccato lineare, ho abbassato la potenza, il DAB c'avevo intorno ai 650 watt, e invece passavo. Uno mi ha detto, vostro era Rosa di Cattura, camionista, ma dove sei? In Sardegna sono io. In Sardegna e boh, e non si discute, ha soltanto Jack, dove si passi e. Vabbè, ci avevi in vasta, normale che passi. E ma lì infatti è più forte, no? Fanno le chiamate, quello più forte viene ascoltato. Lì mi ricordo che c'era Killer, cavolo, che passava tutti quanti, nella modulazione. Io penso una cosa già, ma proprio spassionatamente, il lineare che c'è qua in Sardegna non ce l'ha nessuno in Italia, ma su questo ti posso contare. E quello lì? Non è compreso. Oh già, 52 finali, 8.000 fatte, non ce le ha nessuno in Italia 8.000 fatte. Ma ce l'hai tu? No, no, no, ce l'ha una persona che conosciamo bene tutti, là. La Ruggia è nel camion, ma oh Gianni, la Ruggia nel camion. Ah, ho capito. Ho capito, sì. 8.000 watt addirittura, allora, io posso capire 1.200 watt, due assemblati, ma 8.000 watt è come cacchio il pilota. Già il pilota, già il pilota, non ti preoccupare. Si è fatto un bel alimentatore, poi si è comprato un inverter da 12 a 220 e lo collega lì. Una valigia è già, induro dei bigliami, fa due maneci, c'ha, sono 12 ventole mi sembra. Ma sai che rubo i guaghi su? I rumori sotto la blandina, che lo vedi? Eccolo sì, però già vedo. Beh, deve essere che cintiere. Se quello che sto pensando io, che c'aveva quell'antenna che pareva Buccioli. Sì, l'antenna c'è sempre. Sembra che ci abbia la manto basso per il camion. Ma Buccioli, l'antenna, sembra un Buccioli la carica, è grossa, proprio bella, massiccia. No, carica non ne ha già quella lì. C'ha una specie di aspirale, fatto tutto strano. È un'antenna americana, è lunga 2,40 metri. Già l'ho vista una volta, l'ho vista perché stavano facendo dei lavori di Amendola e praticamente l'ho visto uscendo da lì, capito? No, ma poi a casa ne ha un altro, cazzo, ma è un armadio. È una cosa impressionante, si è fatto costruire un'antenna solo per tenere quei fatti là, là. Si va a pagare di 200 euro questa antenna. Vabbè, c'ha la passione, è proprio appassionato di queste cose potenti, l'ha sempre avuta, ma avevamo dato anche dei video, delle cose a me su WhatsApp. Proprio di nome di fatto, grazie, piace tutta la roba proprio in originale. Vabbè. Quando uno c'ha i soldi per farlo e se c'ha la passione è giusto che lo faccia, non è che... E che ci butti un bel di soldi così, ci butti, oddio, se uno ha la passione lo soddisfa, là. La passione ce l'ha, se no non avrebbe avuto tutta questa roba, ma diciamo che dove lo usa, diciamo che ci parla, sta tutto il giorno lì, e cosa devi fare? No, non l'ho più visto viaggiando, ma sempre in Sardegna. Sì, già c'è, io voglio, non c'è più chi sciogami, Sì, quello blu, e gli sono contento per nome da lui quando lavoravo nella zona sua. Invece una berretta lì dove c'è il capannone, l'officina dove tiene i mezzi, insomma, è ben organizzato. Ascolta, si vediamo, ma prima c'aveva due da 600 abbinati, vero? No, prima c'aveva 2.200 abbinati. Ah, 2.200, è vero, sì. Ehi, 2.400 watt. Ma sai chi c'era il 1.200, Massimiliano? Mario Babbo Natale. Mi ha sempre detto di andare a prendere, non c'era del 2002, era il Superstar 7010, quello da 50 watt, che è bella la radio. Fatelo dare che lo proviamo quel lineare, come se va. Io, ma non me l'avete comodato, solo io non sono mai andato, capito? Mira, prende almeno luce, è termica che luce, e quella è 12 volt, ma ci vuole metà quella da 30 ampere. Non è 12 volt, il 1200 a 24, se ok, gli hanno messo i finali e fatte le modifiche per farlo a 12, se no nasce a 24 quello, della ZG. No, io mi ricordo che ce l'aveva collegata una batteria quando viaggiava Mario, che era con Aroni, ce l'aveva collegata una batteria. Lo ricordo perfettamente perché quando l'ha montato c'ero io, capito? E poi quando abitavo in Corso Ricco l'avevo attaccato, l'avevo attaccato un alimentatore, però aveva la potenza minima perché se no non ce la faceva l'alimentatore, perlomeno, io mi ricordo così, poi Ma non hai invece anche lui lo collegava a 12 perché non aveva possibilità di collegarlo a 24, no? Perché tu lineare a 24 lo colleghi a 12, funziona lo stesso e ti dà meno della metà della potenza, capito? Perché un 1200 dà intorno ai, sono 9 finali, capito? Dà intorno ai 1000 watt, 1200 watt. E magari collegandolo a 12 così ne dà 400-500 watt, capito? Qua l'avevo proprio provato io assieme a lui quando era il corso Vico con la Mantova collegato a 12 volt, se me lo ricordo perfettamente, dava 650 watt a 12 volt. E allora io così, come ti dicevo, intendevo, magari non aveva possibilità di collegarlo a 24. Ok, allora così. Allora c'è un collegamento come il tuo da 12 a 24, vabbè. Come da ci va, ci siamo sentiti da poco, però non mi informo, devo fare alcune visite, alcune cose, e quindi ho lasciato perdere, capito? Però se va vediamo là, ma se poi per 7000 io l'ho usato, minchia cazzo, che bello. È il numero uno che si pensa, 7000 dix, c'ha 50 watt, un bel canale, bellissimo, molto molto bello, frequenzine. Io ho visto un AM International dopo tanto tempo, l'altro giorno, un AM International 2, di quelli Viking 2. Ma Viking 2 o Multimove 2? No, il Viking. Ah, il Viking, sì, no, io c'avevo un Multimove 2. Ultimo 2, ultimo 3, c'è un male, lascia perdere già, superfa 7000 dix è una cosa spettacolare, c'ha 50 watt, arriva sino a 50 watt, ma è un vice trasmettitore, va a favola, veramente va a favola, c'è un bel di canali, poi nuovo, colui, ce l'ha sempre dentro una scatola, l'aveva tolta quando non viaggiava più, l'aveva tolta, se non lo usava sempre nel camion, capito? Ricordi tu, sì, Massimiliano? Sì, io mi ricordo, sì, però io mi ricordo anche che una persona di Porto Torres una volta te ne aveva dato uno, mi pare era intorno ai 150-200 watt quella radio lì, bellissimo, tutto a blu, che radio era? Il diametro di quello che c'ha Gianni, durante che c'è il Cobra e la Fayette. Lafayette che è LK 200, quello che c'è a lineare da 300 watt sotto la pancia. Quello lì, ma non era un Galaxy, io mi ricordo un Galaxy forse, sa. Bravissimo, bravissimo, scusa, il Galaxy, sì. Il Galaxy era GTL 200 XSX, cazzo, io. Dice già è più bello dello 2, eh. Quello veramente è una cosa spettacolare, c'ha un B300, proprio un B300 sotto la pancia della radio, pazzesco. Me lo ricordo che gli aveva fatto fare la ventola del raffreddamento perché scaldava, mi ricordo tutto. E quella persona lì, già hai capito. Cazzo, ne ha avuto il radio quella persona, minchia che radio bella che ha avuto, cazzo, tutti venduti c'era, tutti, non li duravano in un mano, cazzo, come anche in 3D anni scia, amico. Come anche in 3D anni scia, amico. Mi aveva chiamato che aveva comprato un... No, vabbè, l'FT950 l'avevo preso da lui, l'aveva comprato, però non lo usava, io ero già radiomatore, l'avevo comprato da lui. Avevo comprato da lui l'FT950 della IAS. Lui ci aveva un 940, gli era entrato. Vabbè, ci vediamo, voglio vedere com'è. Cazzo, mi trovo, l'ho già venduto, il continente. Non gli durava nulla. Ci aveva anche il Galaxy Turbo, me lo ricordo. Ehi, il Galaxy Turbo. Non bene, aveva il Perception base, bellissimo, colto cromato. Aveva un sacco di radio, molto belle. Una l'aveva data a te, Massimiliano, quella che avevamo dato a Giuseppe. Sì, avevo fatto cambio, io le avevo dato un Inuit, come quello che c'avevi tu, Cla, cos'era? Quello 23 canali. 50 a 24. Bravissimo, io le avevo dato quello lì e lui mi aveva dato quello che avevamo dato a Giuseppe. Il nominamento Marco cos'era che si arraglia, 140, c'era scritto 140 però non mi ricordo cos'era. E poi tu avevi fatto cambio, anzi io. quando mi lamento c'è scambio, grazie, devi fare la gira contato a povero Giuseppe, che ti è durato un mese. Vedi, quello gli avevo dato, diciamo che c'aveva la mia stazione, Alghero, quello. Allora gli avevo dato quel bel linearetto, che poi era il tuo, quello, all'inizio, quel 507. Quello, vabbè, te l'aveva pagato, altra roba. Ma il cambio l'avevamo fatto alla radio, perché lui non la sapeva usare. E tu ti ho procurato una bellissima radio, base, sì, sì, portamela. Portamela, avevamo fatto il cambio. Una truffa, ragazzi, una truffa. Bella, poverino. Avanti già. Quello, quell'anziano, quello che è morto. Già matto, sì, molto bravo. Persona bravissima. Quello era uno dei più grandi dirigenti che ha avuto Franco Binario. Ma un cranio, Cesare di un cranio. Quello era dirigente nelle ferrovie. Della Sardegna, un cranio, quello progettava, dirigeva, faceva tutto. Già, lo sai cosa mi ha fatto vedere? Da una di quelle radioline portatili, quelle in lamiera che si usavano prima tantissimi anni fa, ci aveva costruito un telefono. Ho visto. Un ingegnere elettronico. Ti dicevo con i Zenni che era un cranio, un mostro. Tu pensi, c'ho ancora le due valvole qua che mi aveva regalato due valvole per un lineare e ce le ho ancora conservate. Andiamo assieme. No, ingegnere, non è geometra, ma se ne metteva in culo gli ingegneri, ma parecchi mi trovati da Franco Binario, cosa dici? Bravissimo, intelligentissimo, una cosa spettacolare. Andiamo sempre in vendita a casa, ogni volta che andate via me la sempre in vendita, costruendo, facendo. Ma le radio show che fino ne ho fatto? Le ha vendute? No, c'è tutto, l'importo sta vendendo tutta la stazione completa a 600 euro. E che cosa c'è? E questo base, 23, no, cos'era? Non mi ricordo, 23 o 40 canali era Massimiliano. No, era modificato, classe, ti ricordi? Gli avevano dal pomellino del Mickey Gain, gli avevano messo sempre dal pomello a scatti, tre scatti, e aveva 120 canali. 120 canali, sì, un base, un cassone in legno, bellissimo. Un base, quel base lì, poi c'ha il microfono da tavolo che gli avevo regalato io, lo avevo regalato perché mi hanno fatto alcune cortesie, avevo regalato l'MBP5, quindi c'ha quello, il Rosmetro Vattimetro, quello buono che gli avevo fatto comprare da quell'amico di Borgo Torres, e poi il B507. Ah, ma radio tipo Kevud non ne aveva? No, radio tipo Kevud l'aveva data Massimiliano. Ah, ecco. Perché io mi ricordo che tu gli dicevi sempre, cosa hai toccato? Non dovevi lasciare com'era. E toccava sempre che cosa, e ci va basso oppure troppo forte. Stai zitto, non dire niente. Guarda, già, ti posso dire che io intanto lo conoscevo già perché è molto amico di mia zia, l'Alghero, insomma, poi abitava vicino al negozio di mia zia. Lo conoscevo, ma tutte le volte che a me mi chiamava io dovevo andare a sistemare la radio. Me la resettavo, memorizzavo e riuscì a ducare e riuscì a puntare il gasino. Siamo arrivati al punto che mi dava anche i soldi del gasolio. Io non ne ho mai preso, ti giuro, come che non vedo la luce di domani, non ne ho mai preso. Ogni volta mi metteva 20 euro sopra il tavolo. Mettiti gasolio, non ne voglio. Pigliavo la macchina e andavo via, sempre, tutte le volte che mi chiamava. Ma non intendi che c'è la FM? Eia. Ehi, già l'accento, sì. Ma mi sentite, sì? Sì, sì, tranquillamente. Sì, sì, qua al limite sei passato, No, però già sono andato due o tre volte io con Claudio, me l'ha fatto conoscere. Bravissima persona, guarda, ma proprio brava, gli abbiamo messo a posto tutta la stazione. Vabbè, poi c'è anche UVU. Un altro, ti ricordi là, quella radio che andava cosa c'è? Che andava nei 45 metri, cos'era quella radio? Un bel bella. Non me lo ricordo adesso, sì, c'era quella lì, poi c'aveva il VHF marino perché c'era la barca, il VHF portatile che gliel'ho procurato lo stesso io. Ah, ne aveva delle cosettine, poi fra il nipote, io ero l'unico nipote, ci ha preso tutto e l'ho caricato a Valerio, perché io il nipote non lo conoscevo, invece Valerio sì, e gli ho detto dille cosa vuole, che me le prendo tutto io, così c'ho anche un ricordo, e mi ha sparato 600 euro, non c'è il valore di 600 euro, lì in Ferrafa ci sono 350 euro di materiale, non di più. Più o meno così, classi. Fai il conto che quella radio si può valere sui 70-80 euro, quel linearetto sui 170-180 se li vale però, quello lì, e poi vabbè c'è altre cosettine, e sui 300-350 euro. Io ho risposto a me dietro 350 euro, ma non ho mollato manco di nulla, e ancora oggi ogni tanto ve lo vede Valerio, mi ha detto sì, glielo ho chiesto, c'è sempre tutto lui, però va a fare un'altra proposta, lui non scende, allora ce la magna. Ma giusto così è, per buttarci 350 euro e averla andare qua, ma avrei sfruttato quel lineare, ma l'avrei collegato, non so, per dire al Galaxy, al DAC, visto che è transistorizzato a 220, giusto così, ma niente di che. Ma io 600 euro non gli dirò perché non c'è il valore, capito? Se ci fosse stato il valore, sì, vedi, se avessi avuto il K più il lineare, più tutta quella roba lì, l'avrei dato 600 euro tranquillo, perché c'aveva già la radio, sia 80 che era intorno alle 350 euro di valore. Ok, quello sai cosa puoi fare? Puoi chiedergli se ti dà quel 507, gli fai fare la modifica da chi sei tu e lo puoi usare in HF quello. Quello da 400 watt quel lineare, io l'avevo fatto mettere il finale in cuffia da 200 watt l'uno. Sì, ma quello lì è già 0,30, stai attento, quello era 0,30. No, il 507 è 26,30, non è 0. Ah, 26,30, sì, vabbè, lì basta cambiare la due connotati dell'amico e diventa 0,30. No, ma non c'è un'idea, ti mando la foto che c'ho dentro l'armadio, dai, ci sono due amplificatori, e quello, la Liaison non è qua, cosa pensi che ce l'abbia l'amico? È qua, e non l'attacco, lo potrei attaccare tranquillamente sia al K che addirittura al 920, al FT920, perché c'è il collegamento per quella rete, ma non ne attacco, non c'è un'idea, non ne attacco, non mi interessa, non me ne affutti nulla, ce li ho lineari, ce li ho, vedi quel 747, proprio perché non lo usavo, per non metterlo fuori, mette i piedi, è stata fatta quella modifica e l'ho fatto fuori, e lì dentro, non si vede, sta a posto. Ma c'ho anche l'altro, c'ho anche il B300, c'ho l'altro, non ne uso, non me ne fotti nulla, vai già. Già nel vostro si è caputato, o magari al telefono. Non lo so, nulla, addirittura ne avevo dato anche uno a Franco, Califfo, per usarlo in macchina, mi pare che era un B150 se non mi ricordo, l'altro, quello che avevo preso da Antonio, ti ricordi, quello l'avevo dato a... L'ho volato lo stesso, e quello era un B300, mi sembra, non mi ricordo, quello che l'hai livellato tu, mi. Chi se l'avevo fatto di bella spazio, l'avevo fatto. Però ti dico che andava bene, non si vedeva niente, era piatto, più basso dell'altro, il dissipatore, però andava bene, verniciato di nero, ti dico che era mezzo, andava bene. L'ho verniciato io, la voglia, ma volete un'altra temperatura, ma va bene, comunque fatele dare. Buonasera. Ciao Giovanni, buonasera. Cazzo ci arrivava? Avessi di Nazia eri infatti, ma stai scherzando, era perfetto quello, l'avevo dato. Avanti Giovanni, buonasera. E allora, modulatori, cosa siamo combinati che arriva? Noi siamo convenienti, non so. Io ce l'ho un bel lineare, ma bello. Oh, vabbè, non ce lo fai vedere. 2002, dovresti conoscerlo. Il BV 2002? Yeah. Sono una bella bestia, lo stai vendendo? Sono un settaggio. Io vi gioco una ZG, io vi gioco 40 anni in radio, non ho già massacrato le legnali. Quello è il 2002, il BV 2002, una bella bestia, no Massimi? Ma ne hanno fatto vari modelli, capito? Ne hanno fatto quelli con... dentro c'è un 750 alla fine, capito? Cos'è quello che è da 600 watt o quello che ne va 400? No, questo è 1200, questo è 1200. Ah, il 1200 o il BV 2002? Te l'ho già compreso? 1200 watt è questo. Ma è cos'è? BV 2002? BV, no, BV. Ma non lo so, mi sono va. B 2002. E cosa dà 1200 watt? Ma cosa si risente va? Quel BV 2002, monta i finali, gli MRF 422, danno 150 watt l'uno. Da poi me li fai vedere tu 1200 watt in derivata in banda laterale. Sì, ma rivista, ma è come non lo so io. Ce l'ho avuto, per quello te lo sto dicendo. Ce l'ho avuto e non li dà assolutamente. Ma neanche in banda laterale ci arriva, neanche a 1000 arriva, non so. Tra la manopola degli scatti e dell'aumento già lo so, cioè dalla prima marcia alla sesta marcia lo conosco benissimo. Sì, è quello, e poi c'è un affare dove sì, credo che siano i watt, che misura i watt che dici. Sì, c'è il suo strumento, no? Ma che non è neanche affidabile molto quello lì, vuole misurato con un wattmetro esterno. Comunque quello lì se lo piloti bene, va bene, però diciamo fesseria che date 1200 watt a chi si può arrivare da niente. Vabbè, questi mai poi non ne comprendi nulla. No, Dio va, cioè quello lì non li dà 1200, ragione Massimiliano, quello da 600-700 watt non di più. Io so solo che sono sempre al primo stato perché quel stato di radio se salgo non va in fatturazione, dai. Perché c'è disaccordo, evidentemente c'è troppo ingresso anche sulle valvole, non è perché valvolare tu le puoi dare l'ingresso per voi. Io ho un jumbo della CTE che è un 600 watt, 600 watt in SSB, in AM li dà 300 watt, 300-320, non è il mio, lo sto vendendo 100 euro nuovo, ma nuovo veramente a 220, c'è le valvole nuove. Ok, il BV 2002 non è valvolare, è transistorizzato, è preciso, identico al 507, uguale, capito? L'unica cosa che il 507 è due finali, il 2002 è quattro finali, ok? Ah, ecco, lo sto confondendo io Massimo. Allora è così. Sì. No, questo è quello che ho io di Pinocchietto, è nuovo, ma nuovo, fiammante, nuovo, funziona benissimo, alla grande. È un 600 watt, 600 watt. In banda laterale però, che poi non era neanche, mi darà 450, 480. Però in AM 280, a picchi di 300 li dà, l'ho provato io addirittura col K. Ho messo il K a 5 watt, picchi di 10 e... è una meraviglia. No, vanno bene, claro. L'unica cosa che io ci ho avuto il 2001, quello che col modulometro, l'unica cosa che allora sono secondo me i migliori a valvolare, sono i migliori secondo me, il mio parere personale. L'unica cagata che c'hanno è che ogni canale che ti pulsa ti bisogna fissare accordando le valvole tutto lì, se no vabbè, questi transistorizzati accendi e parli, però quello lì devi farlo scaldare un po' prima, per esempio un rompimento di catto, lì, così è Giovanni. No, io lo lascio al numero uno, lo metto, capito, da voi non posso fare altro perché non me lo tiene la radio, sicuramente questa radio sta qualche watt, avrà qualche watt e poi non si capisce niente, capito? Ti posso dire però che è un bel pisantica, un blocchetto, è un cantone bianco, anzi non un blocchetto, un cantone bianco. Giova, lo conosco bene perché ce l'ho avuto, capito? Però usandolo per farti capire, con una radio così modificata, con le eco, ma le varie, tu quella radio la usi con 2 watt, così, e quello lì, il TK picco massimo te lo fa salire a 550-600, sempre che i finali siano buoni, ok? Ma io lo usavo sempre in quinta marcia, in setta lo metti pochissimo. Quella radio che stai